Things have come to a pretty pass. Our romance is growing flat. For you like this and the other, while I go for this and that. Goodness knows what the end will be. Oh, I don't know where I'm at. It looks as if we two will never be one. Something must be done. You say either, and I say either. You say neither, and I say neither. Either, either, neither, neither. Let's call the whole thing off. You like potato and I like potato. You like tomato and I like tomato. Potato, potato, tomato, tomato. Let's call the whole thing off. But oh, call the whole thing off, then we must part. And oh, if we ever part, then that might break my heart. So questa è la nostra elegantissima sigla. Like pajamas, I'll wear pajamas. Siete all'ascolto di Spirito di Patata, la trasmissione di femminismo pop con Chloe e Valeria, che oggi ha deciso che si mangia il gelato e non parla. Che tra parentesi è il mio gelato. È entrata la primavera, sono le 17:18. Guarda, è lo stesso appunto che ho fatto io prima. Tra l'altro Google ce l'ha da stanotte. Che prima infatti tutti quanti scrivono ah, è primavera, di solito è il 21 marzo. Però pare che ci sia l'equinozio alle 17:18, 17:17. Ma che fortuna, quindi apriamo con la primavera! Infatti io ho due canzoni proprio da primavera, primavera, primavera. Una l'ho messa pure la settimana scorsa, l'altra pure, però sono due canzoni a primavera, per cui adesso per almeno due martedì fino che a fine marzo. Che bravissima, hai indovinato. Dai, dai, subito, dai. Oh, if we ever part, then that might break my heart. So if you go for oysters and I go for oysters. Quindi adesso sfumeremo, sfumeremo la nostra Ella Fitzgerald e caraucandola. Che fretta c'era, maledetta eccola, primavera. Voglia di stringersi poi, vino bianco, fiori e vecchie canzoni, che si rideva di noi, che imbroglio era, maledetta primavera. Che resta di un sogno erotico se al risveglio è diventato un poeta. Che sto domande esistenziali, eh? Mani vuote di te, non so più fare. Bodina fa gli scherzi della radio e butta l'acqua. Se per errore chiudo gli occhi e penso a te. Tanto lo so che state a cantare tutte. Che imbroglio se per innamorarmi basta un'ora. Che fretta c'era, maledetta primavera. Che fretta c'era, se fa male. Bodina voleva cantare in diretta comunque. Che resta dentro di me. L'innominabile. Di carezze che non toccano il cuore. Stelle una sola ce n'è. Che mi può dare. cura di un amore. Se per errore chiudi gli occhi e pensi a me, siete presi la bottiglia, la matita, il portapenne per fare il microfono. Maledetta primavera, per innamorarsi basta un'ora, che fretta c'era. Maledetta primavera, che fretta c'era. Da oggi in poi bisogna cominciare a depilarsi, questo sostiene Valeria. Eh sì, no, da oggi in poi questo è un vero gesto di rottura, non depilarsi, andare con la minigonna e la calza velata senza essere depilate e morire di caldo a un certo punto con le calze, mi farà un po'. No, io mi sono messa alla minigonna e le calze, però dopo mesi d'inverno io ho buttato giù il giaccone, sto con la giacchetta di pelle, sono felicissima di ciò. Sono le 17.22. Questo è Spirito di Patata. Ma si era capito? La Chloe ha cominciato proprio sprintosissima, felicissima. Proprio oggi. Oggi è issima. Penso pure che sia, non so, ubriaca, perché è veramente esaurita già a quest'ora. E procediamo con calma. Procediamo con calma questa nostra trasmissione di femminismo pop, di miscellanea, di ciò che arriva dai mezzi di comunicazione, e non solo quello che troviamo, noi lo rifiltriamo attraverso i nostri occhiali viola, attraverso la nostra simpatia. Però nel mentre che lei si prepara a commentare l'articolone che stava su Repubblica ieri, vi metto la seconda canzone di Primavera. È proprio primavera, primavera, primavera. Io credo nei miracoli che la gente può fare, milioni di chilometri per potersi incontrare, per guardarsi negli occhi e spiegare un errore, per un gesto che forse sarà l'unico che potremo ricordare. Io credo nei miracoli che la mente può fare, milioni di chilometri senza doversi spostare, per creare una storia che prima non c'era, ed una nuova invenzione, quella che salverà l'umanità intera. Forse non sai che la primavera arriverà a prenderti domani sera. Canzoni che ti han fatto sognare e ti danno la forza di combattere ancora. Per ogni nuova battaglia c'è una nota che ti canta in gola. Forse non sai che la primavera arriverà a prenderti domani sera. We'll be right back. Jackson, crediamo nei miracoli della primavera e... con calma, spieghiamo anche una cosa, ha chiamato un ascoltatore e ci ha raccontato la storia di Maledetta Primavera. Maledetta Primavera, che è una canzone un po' triste, perché dice: che fretta c'era, maledetta primavera, basta un'ora. In realtà questa ragazza giovane rimane incinta e lui se ne va. E a proposito di questo, pensa che mi sono fatta dei due anni dei filmoni su questa canzone, non c'entrava niente. È così, così, questo è l'interpretazione che ha dato suo padre a questo ascoltatore, che lui ce l'ha, quindi le raccontava, gli ha raccontato la storia, ha fatto un'analisi del testo. Dopo questa analisi del testo, quindi, noi ci agganciamo perfettamente a un film che sta per arrivare in sala, che si chiama, si intitola 17 ragazze, ed è delle sorelle Cullen. Allora, questa storia... Attenzione, questa, raga, è tosta. Questa è tosta e potremo aprire... parleremo aprire mezz'ora, faremo discorsi da bar, ma discorsi da bar femminista, discorsi in cui non saremo noiose, perché siamo io e Claudia al microfono, quindi è possibile che saremo noiose. Però di che cosa parla? Allora, titolone di Repubblica: la gravidanza è un gesto politico per le giovani ribelle di oggi. Ah no, aspetta, il prima dobbiamo fare la premessa di questa storia. Questo film, che adesso non ricordo, che si chiama 17 ragazze, è stato vietato ai minori di 14 anni. Ma no, ma è stato vietato perché all'interno del film pare che qualcuno, non so chi, si fumi uno spinello. Ora, io se avessi dovuto vietare questo film a qualcuno per qualche motivo è perché, appunto, questo branco di pazze furiose decide di rimanere incinta tutti insieme a 17 anni, credo. Sì, allora, aspetta. Ecco. La storia è ispirata ad un fatto di cronaca. Nel 2008 abbiamo letto sulla stampa francese la notizia che nel liceo di una piccola città del Massachusetts, 17 ragazze... Ridillo. Massachusetts... 17 ragazze dello stesso liceo erano rimaste incinta nello stesso periodo per loro scelta. Volevano inventarsi una vita diversa, una storia di comune basata sulla solidarietà e sul sostegno reciproco. Una storia incredibile. Il loro gesto ci piaceva molto. Ci è sembrato un gesto politico, comunque utopistico, e ci siamo imbarcate in questa storia. Che di per sé, guarda, è anche una bella storia, cioè, non c'è che dire. Però a 17 anni, dico io. Riflessione. Ah, già da questa piccola sinossi, e non sinapsi come ho detto l'altra volta, da questa piccola sinossi possiamo tirare fuori un le po' sinapsi, di cose. Quelle sì, possiamo tirare fuori un po' di dati, un po' di critiche. Allora, perché una ragazza di 17 anni per affermarsi deve avere bisogno di una maternità? Domanda numero uno. Cioè, te già a 17 anni senti questa esigenza? Cioè, il tuo unico modo di affermarti è attraverso la maternità? È la tua unica via d'uscita? Anche se lo fai con le tue sorelle, le tue amiche, ed è molto bello vivere questo con le compagne del liceo, quelle che vedi tutti i giorni, ci stai dalle 8 fino alle 2, poi uscite insieme, andate a dormire insieme, fate tutte le prime esperienze insieme, che è veramente bello. Si crea veramente un clima di sorellanza, ma la sorellanza scelta, cioè noi i parenti serpenti che te capitano purtroppo, ma sono le sorelle che scegli, che incontri nella vita e che dici sì, siamo noi, ok, bellissimo. Però un figlio, cioè c'è proprio bisogno di un figlio a 17 anni? Va bene che sia scelto, ma io ho conosciuto ragazze che a 17 anni hanno deciso di tenersi un figlio, però non è stata proprio una scelta, hanno deciso in quel momento, decisero di tenersi un figlio, ma chissà perché hanno trovato problemi ad abortire negli ospedali, i consultori erano chiusi la maggior parte delle volte, quando andavano a chiedere consigli per la loro gravidanza, quindi poi sono scaduti 3 mesi e si sono tenuto il bambino, quindi forse non è stata proprio una decisione, ma è stato il caso che ha voluto che... Guarda, mo ti rispondo così, ti rispondo. Chi l'ha riconosciuta? The World. Raga, dai, non fate i figli a 17 anni, mannaggia a voi, mannaggia. No, vabbè, facciamo che questa cosa capita. Questa cosa delle compagne di classe. Allora ti dico, tutte le mie compagne di classe, quelle con le quali, quelle che frequento di più, praticamente siamo rimaste non tutta incinta contemporaneamente, però quasi incinta contemporaneamente. Però ci avevamo una media tra i 28 e i 32 anni. E quindi è stata una maternità. Ma ti ho detto che lo devono vietare ai 14 anni, perché non ti puoi mettere a far vedere un film dove queste sono tutte allegre e felici, che a 17 anni restano tutte incinta. Ma che siete matte? Un po' sempre dalla storia di questo film, che si intitola 17 ragazze delle sorelle Cullen. C'è una prima ragazza a rimanere incinta, decide di tenere il bambino trascinando le compagne, ma c'è anche la ribellione, la voglia di cambiare il mondo, gli stessi sentimenti dei movimenti femminili degli anni 70. Semmai femministi, mannaggia, chi è la... Maria Pia Fusco, che tra l'altro so anni che ti vorrei dire delle cose, perché scrivi degli articoli con queste proprio inesattezze, tipo questa. Ma noi il movimento femminista non si può dire, brutto, cacca, pipì, non si può. Non si può, femminista è brutto da dire. Cioè sembra che come... Ma poi che sono i movimenti femminili? I movimenti femminili sono quelli che ne so, taglio cucito, il bridge, il tè delle 5. Buono il tè delle 5, ormai fa caldo, quindi il gelato delle 5. Vabbè, comunque, a parte Maria Pia Fusco, che come al solito scrive un po' così, superficialmente, almeno che non ci sia un diktat a Repubblica per cui la parola femminista non può comparire, tipo il dizionario la cambia in automatico, tipo, ah, femminista! Ma ce la sentiamo tipo la Gianna Nazionale, così tutti possono sempre continuare a cantare? Beh, tu sei molto contento. Oh, comunque manco uno squillino, e vi mettiamo pure la Gianna vostra. 06 49 17 50, fate il karaoke con noi, dai. Ecco, ah. Vabbè, sì, è mentre che lei scende nel paradiso, quindi questa canzone finisce dopodomani, noi andiamo avanti con Spirito di Patata. Ho capito, Simone, ho cominciato ad attaccarmi al telefono. Che... Grazie, grazie. 06 49 17 50, questo è Spirito di Patata. Io devo dire una cosa, divertita tantissimo. Mi sono divertita tantissimo l'8 marzo per tutta la durata delle 24 ore, non sono stata tutte 24 ore, però il momento che mi è piaciuto di più è stato quello del mattino, e sia del risveglio, il buongiorno, buongiorno, buongiorno. Brava, no. Tienilo che non... Il c'è chi si sveglia e non si sveglia. E poi mi è piaciuto tantissimo fare la rassegna stampa. Vi ho portato la chicca che avevo messo all'alba, così, sempre per la primavera. Poi dopo vi rimetto. Tu hai dei collegamenti che Edgar Allan Poe proprio gli fa un baffo. Insomma, mi è piaciuto tantissimo fare la rassegna stampa, quindi oramai continuo a sfogliare... Non va? Devo cambiare il microfono? Cambiamolo. Continuo a sfogliare i giornali come se stessimo ancora in rassegna stampa dell'8 marzo e ne facciamo un po' così, estemporaneamente a spirito di patata. Repubblica, paginone, l'inchiesta. Ta-da! Ma perché io lo compro tutte le mattine? Io questa cosa mi chiedo. L'inchiesta, infatti io non lo compro. L'inchiesta. Donne, soldi, fame e potere. Ora il capofamiglia è lei. Dal nostro inviato Angelo Acquaro. Eccone un altro. C'è bisogno di andare a New York per scrivere queste cose. Sì, c'è bisogno di comprare un giornale a New York per scrivere queste cose. Ma tra l'altro, secondo me, New York fa storia a sé proprio nel mondo. Nel mondo, essendo emblema, città emblema del capitale, la vedo. Te credo che magari succede pure questo, però giusto là. New York, dati messi in fila dai sociologi. Ma poi perché, scusa, su Repubblica fanno il paginone su come stanno le donne a New York? Beh, perché hanno un inviato a New York, cioè lo pagano. Due cose dovrà inventarsele. Tucchiamolo se vuoi, effetto pillola. Ma pensavo emozioni, cioè perché se no. La scoperta che ha compiuto mezzo secolo adesso sta la scoperta che ha compiuto mezzo secolo solo adesso sta lasciando intravedere tutto il suo potenziale rivoluzionario. Dopo qualche milione di anni la donna non è più schiava della gravidanza e può permettersi di pianificare famiglia e futuro. Io vi voglio dire che questo articolo sta nello stesso giornale dello stesso giorno del film di cui sopra. Sì, anche tipo due pagine dopo, perché ho girato, ho detto hop, guarda che abbiamo qui. Anche qui le cifre sono da brivido. Le signore hanno recuperato con una velocità sorprendente lo storico e incolpevole ritardo. Le donne oggi costituiscono il 60% degli studenti universitari americani e la maggioranza dei laureati. Ergo, le professioni migliori e più pagate si stanno declinando tutte al femminile. Proprio mentre il tramonto del faticosissimo dei faticosissimi mestieri che hanno nutrito tra le lacrime e sangue la rivoluzione industriale ormai lascia a casa sempre più nerboruti i giovanotti. Vabbè, questa cosa trasferiamoci a New York. A New York. No, la ricchezza rosa d'America. Nel 1987 le donne che guadagnavano più dei mariti erano il 24%, ora sono il 38%. Il contributo femminile al reddito familiare ora è del 44%. Chi decide come spendere i soldi in famiglia? La moglie al 36%, il marito al 35%. Se la moglie guadagna di più, la moglie decide per il 46% e il marito per il 21%. Le famiglie che vivono solo grazie al reddito dell'uomo è una su 5. Anche perché non si può campare con solo reddito. Non so negli Stati Uniti, ma qua in Italia è veramente difficile. Ma infatti... Comunque, vabbè, sì, questo... sempre momenti di grande interesse. E poi, vabbè, ci sono le donne esatto, protagoniste, che sono Angela Merkel, la cancelliera e la donna più potente del mondo, secondo la rivista Comunque Forbes. Qua ognuno fa le donne più potenti del mondo. Addirittura su. Avanti a Hillary Clinton. Poi c'è Liza Mundy, giornalista e autrice americana, che ha scritto il libro The Richer Sex, il sesso più ricco. Mai sentita. Jill Abramson, il primo direttore donna del New York Times, ha assunto l'incarico nel 2011. Christine Lagarde, l'ex ministro dell'economia e dell'industria in Francia, adesso dirige il Fondo Monetario Internazionale. E poi c'è, non poteva mancare il lato italiano, quando tu scrivi ci devi mettere sempre un'italiana, c'è Miuccia Prada. Nella classifica, Miuccia Prada! Sì, nella classifica di Forbes delle donne più potenti al mondo è la numero 79, è la prima tra le italiane. E che dà la dimensione di quanto questo articolo per noi non serva veramente a nulla. Vabbè, era così, pur parlé. E allora noi ci ascoltiamo Rich Girl, Gwen Stefani. like turned upside down. Chicks that blew your mind, ding, it's the second round. Original track and ding, you know you can't buy these things, no. See Stefani and the Lamb, I rock the fetish people, you know who I am. Yes, we got the style that's wicked. I hope you can all keep up. We climbed all the way from the bottom to the top. Now we ain't getting nothing but love. Never was a rich girl. Na na na na na na na na na na na na na na. See, I have all the money in the world. Never was a wealthy girl. Make it test me, impress me, my girl. You will never ever end. 'Cause I have all the money in the world. Never was a wealthy girl. Na na na na. Siete all'ascolto sugli 87.9 in modulazione di frequenza di Radio Onda Rossa in streaming su www.ondarossa.info. Rinfo. Guarda, sembra mai che c'avevi il microfono abbassato. Io saluto tutti quelli che mi conoscono. No, a parte gli scherzi, no, voglio fare le... Posso fare i saluti a casa? No, volevo salutare tutti quelli che ci ascoltano in streaming, che magari non ci ascoltano da Roma e non c'è la primavera come da noi. Questo per creare invidia, praticamente. E magari non ci ascoltano dall'Islanda, dal Giappone. Ah, proprio international. Sì, international, non so, da un posto fichissimo, Francia, non lo so, ma posti altri che però non fa così caldo. E guarda che primavera. Sulla cima dell'Olimpo c'è una magica città, gli abitanti dell'Olimpo sono le divinità, poi lì c'è una bambina che... Ho detto che oggi non sta bene, non sta bene lei. Sì, sì, l'effetto così proprio. Dai, ti tira su. Ti tiravamo su, ma vabbè, quello è pollen, infatti. Infatti sei così, sei agitata, non è riuscita a far finire una canzone, non mi fa finire di parlare. No, come, l'abbiamo ascoltata tutte per intero. Non abbiamo ascoltato nulla per intero. Vabbè, ma quella è la legge del martedì, non si ascoltano mai le canzoni per intero a martedì, bisogna parlarci sopra, sì. Allora, visto che la nostra è una trasmissione di femminismo pop, parliamo anche di... Tiziano Ferro, non è vero. No, parliamo di coppie gay, il diritto alla vita familiare. Questa è il titolo così. Di un allegro, mamma mia. Sì, no, è una cosa pop, molto pop. Il caso aperto dal ricorso di Antonio e Mario, finora ci avevano detto che il nostro matrimonio non esisteva. Ta-da-da. Ma infatti è così comunque. No dalla Cassazione alla trascrizione delle nozze, ma apertura sulle unioni. Oh yes. È una sentenza che non ha precedenti e che ieri ha fatto esultare gli omosessuali d'Italia. È la numero 4184, certo, della Cassazione. Certo che lei la sta leggendo con allegria. E dice: la coppia omosessuale è titolare del diritto alla vita familiare come qualsiasi altra coppia coniugata formata da marito e da moglie. Ma non solo, valutando il ricorso di una coppia di omosessuali di Latina, la Suprema Corte ieri non si è limitata a enunciare un principio astratto, ma è entrata in un merito che adesso rischia di stravolgere la legislazione italiana a macchia di leopardo. Ma io su tutto questo ottimismo starei... No, c'è stato un commento, ho letto un commento su... È stata anche una bella trasmissione domenica su Transizione di Fase, la radio che ci ha mandato in streaming tutta la 24 ore, quindi li salutiamo su Salute e Felicità. C'era ospite, c'è uno che se ne intendeva, un avvocato. E che diceva? No, non me lo... Che forse non è il momento adatto per farsi schedare in questo periodo, quindi avete proprio voglia di farvi schedare? Cioè, dai, non fare così che il discorso è più complesso. Beh, comunque per in questo momento di tristezza proprio, di diritti e no, quant'altro. È una cosa molto interessante perché comunque vabbè è molto sobria ovviamente essendo una sentenza della Cassazione, quindi però sicuramente è un'apertura verso poi secondo me una realtà che esiste, quindi c'è, cioè, per forza a un certo punto. Ma vediamo un po' negli altri paesi cosa succede. Matrimoni in 6 stati negli USA. Olanda, il primo paese a dire sì. L'Olanda è stato il primo paese nel 2001. Dal 2005 il sì anche in Spagna, che è anche adesso vicino. Adesso glielo toglieranno. Portogallo sì, ma senza figli. Nel 2010 il Parlamento portoghese ha approvato la legge per regolarizzare il matrimonio gay, escludendo però la possibilità di adottare figli. Ah, che bello, possiamo andarci a sposare pure a Lisbona. Molto bello Lisbona, molto molto bella. D'accordo, a me è piaciuto tanto. Molto bella. Poi che ne so, magari vai in una di queste quintas fuori, in queste tipo agriturismi che stanno nella campagna. Ma vedete che è primavera, ma vi pare che vi parlavo dei matrimoni? Perché no? Perché no? Scusa, io sono per i matrimoni tra tutti proprio. Dal 30 gennaio 2003 in Belgio è stato approvato il matrimonio tra individui dello stesso sesso. Dal 2007 è stato riconosciuto il diritto di adottare un bambino. Dove? E a questo punto ci sta benissimo, sai che cosa? La sigla di All World che hai messo prima, che non fai mai sentire tutta. Girls in tight dresses who drag with mustaches, chicks driving fast on genoes with long lashes, women who long love lust, women who give. This is the way, it's the way that we live. E ospite in studio Shane. Insomma, il pop proprio ci sta consumando oggi. Vabbè, sentite, visto che è primavera, chi, non so chi di voi all'alba dell'8 marzo fosse, era giusta la coniugazione per me, fosse sveglio, vi mando questo estratto di un pezzo recitato da Margherita Bui e Paola Cortellesi che si chiama Coincidenze. Vieni di qua, va. Gentile signorina, pur non conoscendola, mi permetto di rivolgerle la parola per segnalarle una strana coincidenza. Che, se non sbaglio, in questo mese è la 15ª volta che ci incontriamo in questo stesso punto. Ah, no, non sbaglia, cortese signorina. Oggi è proprio la 15ª volta. Mi consenta inoltre di farle presente che ogni volta teniamo sotto il braccio un libro dello stesso autore. Sì, me ne sono resa conto. È il mio autore preferito. E anche il suo, presumo. Ah, sì, sì, proprio così. Inoltre, se mi permette, ogni volta che lei mi incontra arrossisce violentemente e... per una strana circostanza, non so, arrossisco anch'io nello stesso modo. Avevo notato anch'io questa bizzarria. Potrei aggiungere che lei accenna un lieve sorriso e sorprendentemente anch'io faccio lo stesso. Sì. Beh sì, è davvero incredibile. In più, ecco, ogni volta ho l'impressione che il mio cuore batta più in fretta. È davvero singolare, signorina, sì. È così anche per me. Inoltre mi tremano le mani. Beh, è una serie di coincidenze davvero incredibile. Sì. Sì. E io aggiungerei che dopo averla incontrata provo per un po' di tempo una sensazione strana e piacevole. Forse la sensazione di non aver peso, di camminare su una nuvola e di vedere tutte le cose di un colore più vivido. Ma sì, lei ha descritto esattamente il mio stato d'animo. Ed è proprio in questo stato d'animo che io mi metto a fantasticare. Un'altra coincidenza. Sì. Anch'io sogno che lei è qui, a un passo da me, proprio in questo punto del ponte, e prende le mie mani tra le sue. Oh, esattamente, in quel preciso momento si sente dal fiume il suono di una sirena, di quel battello che chiamano il battello dell'amore. La sua fantasia è incredibilmente uguale alla mia. Nella mia, dopo quel suono un po' melanconico, io non so perché poso la testa sulla sua spalla. E io le accarezzo i capelli. Nel fare questo mi cade l'ombrello, io mi chino per raccoglierlo e trovandoci improvvisamente viso contro viso ci scambiamo un lungo bacio appassionato. E intanto passa un uomo in bicicletta e dice: beate voi, beate voi. Ecco, io credo, signorina, che una serie così impressionante di coincidenze non sia casuale. No, no, no, non lo credo neanche io, signorina, no, no, no, no. Io voglio dire, cioè, qui non si tratta, ecco, di un particolare, ma di una sequenza lunghissima di particolari, insomma, il motivo può essere solo uno. Ah, no, certo, non possono essercene altri. No, ecco, il motivo è che, ecco, che nella vita ci sono sequenze bizzarre, misteriose consonanze, segni premonitori, no? Di cui noi sfioriamo così il significato, ma di cui purtroppo noi non possediamo la chiave. Ecco, proprio così. Bisognerebbe essere medium o forse indovini o cultori di qualche strana disciplina esoterica per riuscire a spiegare gli strani avvertimenti che quotidianamente echeggiano nella nostra vita. In tutti i casi ciò che è accaduto è davvero singolare. Ah, una serie di impressionanti coincidenze, impossibile negarlo. Certo, chissà, magari un giorno ci sarà una scienza in grado di decifrare tutto questo, però per il momento io le chiedo scusa per il disturbo. Ah, no, no, no, nessun disturbo, è stato un piacere. Allora, io la saluto, gentile signorina. La saluto, cortese signorina. Arrivederci. When the truth is found. Coincidenze, no? Con Margherita Bui e Paola Cortellesi. Alla fine loro si baciano? Se lo sono date questo bacio? Ma in diretta no. Ma si baciano? In privacy, no? Ma poi noi era lasciata all'immaginazione, si baciano, si baceranno. Che succede? Martedì autogestito da femministe e lesbiche. E questa era un'eredità dell'8 marzo, uno dei jingle che abbiamo messo durante le 24 ore della maratona femminista e lesbica. E questo era uno dei pochi in cui però l'unico che si può riutilizzare. Ma infatti siccome tra un po' ci aderanno. No, però penso che possiamo estrapolare degli slogan, così come lo stornello cantato dalle ribellule ai microfoni dopo essere state al Ministero del Welfare. Abbiamo avuto un live con lo stornello, più delle registrazioni che ho fatto nei fuori onda, nei divanetti rossi che sono dall'altra parte del vetro. Abbiamo fatto un po' di jingle tipo: ciao, sono Lady Gaga, anche io ascolto il martedì autogestito da femminista e lesbica. La fantasia che non ci manca. La fantasia non ci manca e ce l'abbiamo tantissimi, prima o poi lì. Poi la pigrizia che ce l'abbiamo in abbondanza, però prima o poi non sentirete solo questo. Però volevo fare una parentesi: spirito di patata serve anche per questo, per raccontare quello che non è raccontabile, quello che succedeva qua mentre eravamo attente ai microfoni, facevamo corrispondenza, abbiamo fatto corrispondenza con più di 80 donne da tutto il mondo. Perché voi non lo vedete, perché questa è una radio, ma io sono seduta, c'ho Valeria sopra e mi sta a flippare su questa cosa. Siediti. No, perché questa cosa è tutta rotta e mi rovina le calze velate. Mi volete vestire bene poi. Ed è stato bello perché si chiacchierava, si rideva, si beveva, si fumava, si scherzava, si andava a prendere le cose da mangiare. C'era un panico, diciamo. Si ballava, qualcuno avrà rimorchiato, si saranno scambiati i numeri di telefono, ci siamo fatte foto, ci siamo sparate delle pose infinite proprio. E beh, sono state bellissime, sono state 24 ore bellissime. Sì. Io sono tornata, questo è l'angolo del confessionale. Io sono tornata che ero... Ma da dove? A casa. Sono tornata a casa che ero su di giri. Avevo la mente. Io sono arrivata qua alle 5:45 e sono andata via a mezzanotte e mezza. No, su di giri avevo un po' la mente obnubilata, ma il mio stato di coscienza era alterato. Quello perché è girato di tutto. E avendo bevuto, ascoltavo il CLR con questa trasmissione Quanto mai una calamità, in cui venivano raccontate le storie di quando ci si è scoperte lesbiche, con storie di vita, storie divertentissime raccontate in prima persona, e avevo ero commossa per tanta bellezza, perché a parte che erano delle storie belle per come erano raccontate. Devo raccontarci la tua adesso? No, ormai al prossimo spirito di patata, la storia del mio coming out. Va bene, no, sai, delle storie divertentissime. Ma dicevo: che brave. No, comunque io mi è capitato di parlare con un sacco di compagne che ho ribeccato così in diverse situazioni post 8 marzo, e tutte dicono che effettivamente si capiva e si sentiva che c'era una bellissima atmosfera. Ve la confermiamo ulteriormente, sì, è vero, siamo state molto bene. A un certo punto c'era il panico, c'era la regia piena, la sala piena, le patatine, i rollè di Nutella, le birre, buonissimo, poi tra l'altro il cioccolato, c'era di tutto. Sì, c'era un super alcolico lasciato quando sono arrivata qua alle 6 del mattino. C'era chi mi dava il cambio, che mi passava il rum. Io ho detto: ma magari un caffè. E c'era lo striscione che quelle, le ribellule che sta ancora qua, che ce l'hanno regalato. E bello. Comunque, mi è venuta la canzoncina in mente. No, pare che 9 italiani su 10 siano su Faccia Libro. Dai, non si può dire. Non è possibile. Ora, su Faccia Libro. Mia nonna non ci sta. Manco quelli dall'aldi del vetro, più svariate altre persone che conosco. Pure Spirito sta su Faccia Libro. Se volete diventare amiche di Spirito di Patata, no, dovete diventare fan, perché a noi non ci interessano gli amici. A noi ci piacciono le groupies. Gli amici ci piacciono al bar. A noi ci piacciono le groupies. A noi ci piacciono i gruppi, sono d'accordo. Sono le 18.03, sta per iniziare Atti e Misfatti. Questa era la puntata folle di Spirito di Patata, che bellissima, vero? Che riascolterete sul sito mfla.noblogs.org quanto prima, per chi se l'è perso, per chi la vuole mandare a qualche amica per fargli fare due risate. Stiamo qua per questo. Posso presentarla io questa canzone? È presentala. Ci ascoltiamo Santo Gold, quando ancora si chiamava Santo Gold e non Santa Gold. Sei haha. Goodness knows what the end will be. Oh, I don't know where I'm at. It looks as if we two will never be one. Something must be done. You say either, and I say either. You say neither, and I say neither. Either, either, neither, neither.